sexual. Se decoloran mis posibilidades. Intento el coito verbal. El flujo es tu llanto de abajo. El que censuran las madres. El que considero un éxito para mi ego. Mi soberbia. Canta Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due. Panse mia e panse tua, in ricordo del nostro amore. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai? No. Me la dai? No. Me la dai la tua panse. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due. Panse mie, panse tua, in ricordo del nostro amor. Sexual. Se decoloran mis posibilidades. Intento el coito verbal. El flujo es tu llanto de abajo. El que censuran las madres. Tu mamá, mi mamá.